24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:23 minuti. Buongiorno, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Che dire? Di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Parliamo di prevenzione alla droga, con la proposta che arriva dal direttore del Centro Prevenzione Droga della provincia di Bolzano, che suona così: perché non pensiamo a una liberalizzazione soft, una somministrazione controllata ai tossicodipendenti? Questo perché? Per sconfiggere il narcotraffico, le narcomafie. Una proposta non innovativa, che fa spesso discutere sul tema contrasto alle tossicodipendenze. È una proposta giusta, secondo voi, dare somministrazioni controllate ai drogati cronici per togliere il mercato, abbattere il mercato delle narcomafie? Ne parliamo alle 8:30 e ora andiamo a sfogliare i giornali in edicola. In primo piano, mercoledì 11 maggio, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alla svolta Microsoft nelle telecomunicazioni. Questo è il titolo: il fatto che Microsoft abbia rilevato Skype per 8,5 miliardi di dollari, un focus su quella che è questa nuova fusione e questo nuovo colosso che nelle telecomunicazioni nasce. E poi scampoli di campagna elettorale, praticamente unanime l'apertura dei quotidiani sulle dichiarazioni di Berlusconi. Più poteri al Premier, meno al Colle, così apre il Corriere. Berlusconi, meno poteri al Quirinale per Repubblica. Berlusconi, meno poteri al Colle per La Stampa. Il Fatto, meno poteri al Quirinale, basta, fermiamolo a Milano. Meno poteri al Colle per Il Messaggero. Insomma, vedete, i titoli sono praticamente fotocopia. Vedremo altre aperture più avanti, ma io voglio andare dalle due segnalazioni da cui voglio partire. La prima la troviamo su Repubblica, pagina 28. Pena troppo severa. Che ci faccio qui? Indovinate chi ha detto questa frase in questo colloquio che Repubblica propone a firma Paolo Berizzi? L'ha detta Calisto Tanzi in carcere. Lo sguardo nel vuoto del carcerato Tanzi. Ora sapete che una delle prerogative dei parlamentari è quella di andare a trovare i carcerati. Lo ha fatto il deputato Maurizio Turco, radicale, eletto nel Partito Democratico, è andato a trovare Calisto Tanzi e ha raccontato a Paolo Berizzi su Repubblica alcuni scampoli di questa conversazione. Non sto bene, sono malato davvero, dice a 73 anni, sono in attesa, spero, nella mia scarcerazione. Non è venuto nessuno. I politici, ma che quelli. L'unico che è venuto in carcere è stato Cossiga, poveretto, da me, anni fa, lo ricordo bene. Ma un Calisto Tanzi che racconta Repubblica nel racconto di seconda mano del partito del deputato Maurizio Turco, si sente solo, abbandonato, affaticato, con un eloquio zoppicante. Ed eccola qui la frase: non pensavo di dover tornare in carcere. Che ci faccio qui? Alla mia età. E poi credo che la pena sia stata troppo severa. Questa frase di Calisto Tanzi, certo che farà molto discutere, deve scontare ancora 4 anni e 4 mesi, anche se ha fatto una richiesta di scarcerazione, perché dopo i 70 anni il carcere in genere viene evitato. Il racconto lo trovate a pagina 28 di Repubblica. E poi ce la facciamo. Sì, che ha fatto? Si parla sempre male di Mario Balotelli, sempre male, invece ha fatto una cosa bella. Mario Balotelli, pagina 20 di Libero, salva il bambino vessato dai bulli. Ha trovato un bambino che gli ha chiesto l'autografo una mattina e gli ha detto: perché non sei a scuola? Perché ho paura dei bulli, ha detto questo bambino a Mario Balotelli. Allora Mario ha preso lui, ha preso la mamma, li ha messi sulla Maserati, perché insomma va bene tutto, ma sulla Maserati sono andati a scuola, gli ha detto: indicami chi è il bullo che ti impedisce di venire a scuola. Ha preso da parte il bullo, gli ha detto: adesso tu chiedi scusa a questo mio nuovo amichetto e non gli farai mai più nulla. E ha preteso, insomma, che il piccolo torturatore, imbarazzato e intimorito, chiedesse scusa al nuovo piccolo amico di Mario Balotelli. Balotelli stavolta commuove Manchester, salva il bambino vessato dai bulli. Eccolo qui, lo trovate su Libero a pagina 20. Finalmente ne ha combinata una giusta. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo. In primo piano, E allora la politica fa segnare gli ultimi scampoli prima della campagna di campagna elettorale, prima del voto delle amministrative, domenica e lunedì, poi ci saranno i ballottaggi e dunque, come detto, si alzano i toni, praticamente i titoli fotocopie per quel che riguarda la politica, abbiamo visto i quotidiani generalisti e sono le dichiarazioni di Berlusconi di ieri che era a Crotone in una per la campagna elettorale e che cosa ha detto in pratica? Bisogna cambiare la composizione della Corte Costituzionale, cambiare i poteri del Presidente della Repubblica, come tutti i governi, dare più potere al Presidente del Consiglio e meno dunque al Presidente della Repubblica. Berlusconi, presto più poteri al Premier, così titola il Corriere, anche per Repubblica, il Colle. E la risposta del Colle è: evita le polemiche, non si scende a questo livello. C'è il retroscena di Francesco Bei a pagina 3. In realtà, racconta Francesco Bei, non c'è alcun progetto costituzionale di proposta di modifica costituzionale che voglia limitare e modificare i poteri della Presidenza della Repubblica, ma scrive Repubblica. L'esternazione del Premier è il frutto dell'esasperazione a stento trattenuta in questi ultimi giorni per quelli che il Cavaliere ritiene degli sconfinamenti insopportabili nella sfera di decisione del governo. Effettivamente anche il Corriere fa notare, il Quirinale non replica, estranei a questioni di campagna elettorale. Questa è la posizione del Capo dello Stato a queste dichiarazioni del Premier. In realtà, vabbè, questo sviluppo lo trovate un po' su tutti i giornali, cioè le dichiarazioni di Berlusconi, il fatto che il Quirinale non replichi. Però mi interessa quello che Dino Pesole scrive a pagina 7 del Sole 24 Ore. In realtà, dietro a queste, diciamo, diatribe, da, se si vuole, da campagna elettorale, c'è un qualcosa che invece è più concreto. E il Sole lo racconta appunto a pagina 7. Vale a dire, ci sono dei rilievi del Colle sull'ultimo decreto sviluppo. Decreto sviluppo, i rilievi del Colle. Ecco qui, Dino Pesole racconta che il decreto sviluppo è giunto al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica e ci sono alcuni rilievi che probabilmente il Capo dello Stato farà. Modifica di alcuni punti del decreto, in primo luogo il punto che meno piacerebbe al Colle e per il quale verranno chieste probabilmente delle modifiche è quello di cui avevamo parlato un paio di giorni fa in trasmissione, vale a dire quello che prevede l'attribuzione del diritto di superficie ai privati sulle coste per 90 anni, sulle spiagge. Misura sulla quale la Commissione europea ha già avanzato una serie di perplessità e chiarimenti che sarebbero ora chiesti anche dal Quirinale. Ma, scrive Dino Pesole, l'esame dell'ufficio giuridico della Presidenza della Repubblica avrebbe evidenziato anche altre criticità. Alcune misure del pacchetto Brunetta potrebbero non rispondere ai requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti per i decreti legge. Anche se, scrive Dino Pesole, non è certo in discussione la firma di Giorgio Napolitano su un provvedimento che nasce all'insegna della semplificazione, dunque non può che essere per larga parte condivisibile. Si tratta semmai di apportare opportuni correttivi che eviterebbero peraltro un pronunciamento negativo del Colle sul testo che tra due mesi verrà sottoposto alla firma definitiva del Presidente della Repubblica. In poche parole, scrive Dino Pesole, è in corso un supplemento di istruttoria. Non è la prima volta che accade, probabilmente non sarà l'ultima. Insomma, questa è una dietro le quinte, meno evidente rispetto alle dichiarazioni pubbliche, ma che certo sta a significare c'è un altro qualche tensione o qualche divergenza di vedute su il tema del decreto sviluppo. Per il resto, vabbè, è appunto è campagna elettorale, quindi Berlusconi che si attacca i PM sulla questione di Napoli dice farei portare la spazzatura in procura, visto che ci chiudono le discariche. Il procuratore capo di Napoli, Lepore, risponde scherzosamente: non siamo una discarica e quindi non ci può portare la spazzatura. C'è Adriano Celentano che si è rifatto vivo, ormai pare che abbia preso il Fatto Quotidiano come suo punto di riferimento. Dopo varie lenzuolate pubblicate dal Corriere della Sera qualche tempo fa, ora è già la seconda sul Fatto Quotidiano. Io sto con Pisapia, ma il futuro è 5 Stelle. L'endorsement su Milano di Adriano Celentano, che manda pagina 2 e 3. C'è una lunga lettera. Beh, insomma, i toni sono i soliti. Se vince la Moratti costruiranno nuove centrali nucleari e la radioattività sarà sulle nostre tavole. Chi non ce la fa a tirare a fine mese dovrà andare in Svizzera per un bicchiere d'acqua, poiché in Italia l'acqua non sarà più un bene comune. Tremonti che bisognerebbe licenziare in tronco, ma ancor meglio sarebbe sul tronco. Non l'ho capita questa. Vuole regalare le spiagge agli imprenditori per la costruzione di stabilimenti balneari a 5 metri dal mare. Insomma, cari milanesi, credo che il cambiamento sia Pisapia, anche se... Scrive Celentano, la speranza vera si chiama Mattia Calise, 20 anni, quasi laureato in scienze politiche, membro del Movimento 5 Stelle. Ma, dice Adriano Celentano, anche se voi siete i milanesi delle 5 giornate di Milano, dove fu necessaria la forza per liberarsi del dominio austriaco, oggi basterebbe una semplice crocetta sulla casella giusta, ma forse per questo... cioè per il Movimento 5 Stelle, non siete ancora pronti. E io non vi biasimo, cari milanesi. E dunque dice, almeno votate Pisapia. Questo dice Adriano Celentano sul Fatto Quotidiano. C'è anche una polemica legata all'Authority, alla GCOM, che scrive Marco Mele sul Sole 24 Ore, pagina 15, ha multato di 100.000 euro il TG1, è accusato, c'è troppo spazio dato al Cavaliere, quindi bisogna fare a Berlusconi, bisogna fare un immediato riequilibrio nel tempo di parola e in quello di notizia relativa ai soggetti pubblici. In pratica dice c'è troppo spazio dedicato a Berlusconi, tanto che Libero titola in prima pagina «Sono impazziti, TV vietata al Cavaliere, poiché candidato a Milano l'Authority ordina di cancellare Silvio dai telegiornali perfino quando parla in veste di Premier, un bavaglio ad personam, in compenso Santoro raddoppia». Questa è l'apertura di Libero, insomma c'è polemica sulla TV, c'è polemica sul fatto che Luigi De Magistris, eurodeputato e candidato sindaco a Napoli, per l'Italia dei Valori, ha chiesto e ha ottenuto l'immunità come europarlamentare perché lo ha querelato Mastella, suo grande rivale politico, lo ha querelato in sede civile, e Luigi De Magistris, secondo il presidente dell'Europarlamento a Strasburgo, ha agito nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo, dunque sono insindacabili le sue opinioni e dunque non può essere... si è fatto scudo dell'immunità parlamentare come insindacabilità delle proprie opinioni. Mastella contro De Magistris, anche lui ha l'immunità. Questo è il titolo di pagina 4 della Stampa. Filippo Facci su Libero si scatena. Il querelatore De Magistris ha lo scudo anti-PM, dice querela noi di Libero, e poi lui si difende con l'immunità parlamentare. De Magistris si difende dicendo non devo ringraziare nessuno, il Parlamento ha ritenuto che le opinioni dei suoi componenti sono insindacabili perché nei processi civili scatta l'insindacabilità, non è un privilegio, è la possibilità di denunciare cose scomode, rapporti col malaffare e la corruzione. Fa anche discutere in tema giustizia che cosa? La proposta sull'immunità, un altro tipo di immunità, dell'onorevole Mantini dell'UDC, firmata da 14 suoi colleghi di partito. Per la verità molti poi hanno ritirato la firma quando è divenuta pubblica questa proposta. La proposta, che trova spazio su Libero a pagina 4 e sull'Unità a pagina 9, è una proposta che in sostanza prevede di bloccare i processi dei parlamentari per un mandato. Cioè un parlamentare sotto processo, il processo venga sospeso per un mandato e non più rinnovabile, quindi al massimo per 5 anni di legislatura. Assist UDC al Cavaliere, stoppa i processi dei parlamentari, così titola Libero, mentre l'Unità titola per bloccare i processi arriva il lodo Mantini, la riforma targata UDC. Tra l'altro di giustizia parleremo alle 8:20, io voglio ricordare, abbiamo ospite il vicepresidente del CSM Michele Vietti, temi della giustizia, certo al centro del dibattito della campagna elettorale, ne parleremo con lui. Solo un'ultima battuta prima del traffico, dedicata alla politica, perché pare torni in campo Scajola. Attenzione, il secolo XIX con il retroscena di Giovanni Palombo a pagina 3 racconta che 2 giorni fa Berlusconi ha chiamato Claudio Scajola, ma indagato e fuori dal processo, quello della presunta casa sua insaputa. Pare che Berlusconi abbia promesso a Scajola quel posto ancora libero al ministero, il ministro delle politiche comunitarie. oppure il Dicastero dello Sviluppo Economico, dove però c'è il ministro Romani. Ma qua è più un giallo. Comunque pare che Berlusconi abbia detto: dopo le elezioni, preparati, Scajola. Tocca a te. In primo piano. Come detto, il Sole 24 Ore oggi dedica il titolo alla nascita del nuovo colosso Microsoft Skype. Tra l'altro voglio segnalare che oggi sul Sole 24 Ore c'è un'iniziativa importante per chiunque voglia informarsi sugli incentivi agli impianti fotovoltaici, sugli edifici. Trovate un'intera guida dedicata alle famiglie, ai condomini, alle piccole imprese su questo tema delle quindi fonti rinnovabili, l'energia. Tutte le istruzioni per l'uso, per gli incentivi agli impianti fotovoltaici. L'apertura invece, come detto, è dedicata a questo Microsoft Skype, il colosso di Bill Gates. Ha fatto un'operazione da 8,5 miliardi di dollari, la maggiore nella storia del gruppo. Racconta Pierangelo Soldavini a pagina 3 questo riassetto delle telecomunicazioni, insomma l'acquisizione da parte di Microsoft di Skype, il campione della telefonia a basso costo su internet. Certo, qualcuno per questa cifra, 8,6 miliardi di dollari, 8,5 per la verità, ha storto un po' il naso, alzato un sopracciglio, ma effettivamente è una strategia a 360 gradi che ora mette insieme PC, mobilità, gaming, adesso anche il ruolo delle telecomunicazioni. Tutti i dettagli di cosa cambierà, anche un commento di Luca De Biase, un'analisi che trovate in prima pagina su questa importante acquisizione. Oh, c'è molto di cronaca internazionale, cari ascoltatori. Il tema internazionale è quello di Gheddafi, il mistero Gheddafi che ieri avevamo già lanciato, è scomparso da 9 giorni, ora c'è stato anche un raid, vari raid della NATO. Sono 10 giorni, ucciso o immerso, questo è il termine utilizzato a pagina 3 dal Corriere della Sera. Guido Limpio analizza tutte quelle che sono gli scenari possibili, è stato ucciso oppure no. C'è anche il dibattito: si può bombardare per uccidere Gheddafi oppure no? Questo è un altro tema che trovate sviluppato sui giornali. Il ministro della difesa La Russa, in un'intervista al Messaggero a pagina 7, risponde di sì. L'abitazione di Gheddafi sicuramente non si può bombardare, ma gli obiettivi militari non si individuano e si colpiscono a seconda di chi c'è o di chi non c'è. Se è un luogo dal quale partono gli ordini per colpire i civili, il raid è lecito. Se Gheddafi si rifugia in una base militare, non è che quella base diventa intoccabile, anzi, il contrario. Così dice La Russa, giusto bombardare Raïs se è rifugiato in un obiettivo militare. Poi La Russa dice: non commento comunque le operazioni singole, anche le accuse di avere colpito l'alta commissione per l'infanzia e aver ferito alcuni bambini, non commento singole operazioni. Così ha detto, dice La Russa in un'intervista al Messaggero. Oh, io devo dare questa comunicazione, per qualche giorno Oscar Giannino non sarà con noi, impegni professionali, e dunque oggi eccezionalmente sarò io e indegnamente a sostituire Oscar Giannino alle 9. Per parlare di che cosa? Beh, il tema, oggi è l'11 maggio. Ma io pensavo fosse un po' uno scherzo, una bufala, ma invece pare, ci scrivono anche messaggi SMS di gente che dice: oh, oggi Roma pare un po' vuota, perché oggi c'è l'11 maggio, c'è questa profezia data da un sedicente sismologo scomparso, tale Raffaele Bendandi, che per la verità abbiamo sentito nel GR, in realtà pare non abbia mai indicato neppure questa data dell'11 maggio, eppure questa data dell'11 maggio è nata come un tantam, si è diffusa su internet, e l'11 maggio pare che un terremoto distruggerà Roma radendola al suolo alle 7:51. Al momento Roma, mi pare, insomma dalle agenzie vedo, ma forse me lo confermate, è ancora tutta intatta, non c'è nessuna scossa, tocchiamo ferro, eccetera. Però oggi i giornali: terremoto, la paura di Roma, gite e tende per sentirsi sicuri. A pagina 14 del Messaggero c'è Luciano De Crescenzo che scrive: il terremoto non è vero e non ci credo. C'è Giampiero Mughini in prima pagina di Libero, lui sempre un po' provocatore, dice: non ci sarà nessun sisma a Roma, peccato. questo Giampiero Mughini dice, Mughini scrive: è vero, non ci saranno terremoti, il problema è che io stiamo volgendo al peggio, al sempre peggio, un tessuto civile antropologico che si è liso, corroso, i cretini hanno fatto una tale luminosa carriera in tutti i campi, la vita pubblica italiana sta conoscendo sotto ogni aspetto record negativi che ci vorranno millenni per batterli. E quindi, se Roma andasse giù, pazienza. Chiedo scusa a chi è giovane e vitale, agli innamorati, a chi non vede l'ora di tornare a casa a abbracciare i propri figli. Chiedo scusa a chi è orgoglioso del proprio lavoro, solo che io sono un po' più pessimista e non ci posso fare niente. Sta di fatto che questa bufala del terremoto, anche su Repubblica, la leggenda del terremoto, è pieno sui giornali di questo 11 maggio, di questa profezia. Ne parleremo alle 9 a questo punto. Iena oggi è spettacolare. Sulla Stampa: oggi potrebbe esserci l'annunciato terremoto a Roma. Purtroppo tutti i politici sono in giro per l'Italia. Vabbè, ci fermiamo qui, detto che alle 8:20 avremo Michele Vietti, vicepresidente del CSM, per l'intervista. Parleremo invece di droga, della proposta della provincia di Bolzano alle 8:30 nel nostro sondaggio di dare droga somministrata in maniera controllata ai tossicodipendenti cronici per fermare e colpire il traffico delle mafie. A questo vi dedica anche un editoriale Avvenire, La falsa libertà, firma di uno scrittore, Ferdinando Camon, che leggeremo certamente alle 8:30 nel tema del nostro sondaggio. Intanto il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21. Per la nostra intervista di oggi voglio salutare il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti. Buongiorno e benvenuto, presidente. Grazie, buongiorno a voi. Senta, intanto le chiedo, un paio di giorni fa il premier Berlusconi ha rilanciato quest'idea della commissione d'inchiesta sui magistrati, commissione parlamentare d'inchiesta. Lei come la vede? Ma ovviamente la competenza a istituire commissioni d'inchiesta è del Parlamento e quindi questa è una valutazione che è di stretta competenza delle Camere. Io mi limito a manifestare due perplessità. La prima, il potere legislativo deve sempre essere molto cauto nell'interferire con l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario. E la seconda, se il presupposto di questa inchiesta annunciata è, come si dice, l'esistenza di un complotto eversivo dei pubblici ministeri, ecco, penso francamente che a prima vista manchino proprio le ragioni per qualunque inchiesta. E però, Presidente, i toni sono quelli, no? Li ha sentiti anche lei. Certo, da campagna elettorale, magistrati sovversivi, si è parlato di metastasi addirittura legata associata a qualche PM di Milano. Ecco, è solo tono da campagna elettorale o c'è qualcosa di più? Io credo che convenga a tutti riflettere su quello che ha detto il Presidente della Repubblica nei giorni scorsi in occasione della giornata della memoria che quest'anno è stata dedicata ai magistrati uccisi. Napolitano ha detto che bisogna parlare responsabilmente della magistratura e alla magistratura, consapevoli che alla magistratura deve essere reso onore e che questa è la premessa di ogni collaborazione utile per fare le riforme che sono necessarie. Allora questo ci ricorda che la magistratura è il presidio della legalità in questo paese, cioè la condizione per vivere insieme e dunque, fermo restando il diritto di critica, ci mancherebbe, però alla magistratura si deve rispetto e riconoscenza. Lei però, Presidente, conosce tra l'altro anche Berlusconi, è stato anche sottosegretario in un governo Berlusconi, secondo lei perché alza così tanto i toni? So che lei ne abbia anche parlato con lui, abbia avuto la possibilità, cioè, perché lo fa secondo lei? Questo bisognerebbe chiederlo a Berlusconi. Io penso che ci sia un mix di ragioni personali legate alle sue vicende processuali e anche di ragioni elettorali legate alle imminenti scadenze delle elezioni amministrative. Tuttavia continuo a pensare, e questo in ogni sede cerco anche di ricordare anche al Presidente del Consiglio, che i poteri dello Stato non si devono delegittimare reciprocamente, ma anzi devono fare uno sforzo comune per educare i cittadini a rispettare tutte le istituzioni. Mm. Senta, una parte degli italiani, è innegabile, vede la magistratura come una casta autoreferenziata. Lei è vicepresidente dell'organo di autogoverno della magistratura. Per esempio, che ne pensa di valutare i magistrati in base alla produttività, in base a quello che fanno? Molti dicono, non so, sono pochissimi i magistrati che sono stati cacciati dalla magistratura per errori conclamati. Per la verità, il sistema di valutazione dei magistrati già esiste ed è a regime. I magistrati vengono sottoposti nel corso di tutta la loro carriera a ben 7 valutazioni di professionalità, cioè una ogni 4 anni. Ovviamente bisogna che il Consiglio faccia sempre meglio questa attività di valutazione, utilizzando bene questo strumento, così come bisogna utilizzare bene anche lo strumento disciplinare per esercitare un rigoroso controllo deontologico. Bisogna che la magistratura eviti rispondere agli attacchi chiudendosi a riccio. C'è, deve restare uno spazio per l'autoriforma e per la disponibilità a ragionare delle riforme possibili, perché non c'è dubbio che il funzionamento della giustizia in questo paese va profondamente modificato. Ma voglio dire, se i cittadini parlano di una magistratura che si autodifende, che è chiusa appunto a riccio, come dice lei, come casta, sbagliano? Cioè, una visione un po' popolare sbagliata, oppure c'è un pizzico di verità, un fondo di verità? Come ogni gruppo c'è una tentazione corporativa, ma io credo che la magistratura non la stia secondando, e il mio sforzo anche nel ruolo di vicepresidente del Consiglio Superiore è proprio quello di non assecondarla. C'è anche qualche proposta, ogni tanto rispunta, come in America, si guarda l'America e si dice: ma perché non facciamo i magistrati eletti dal popolo? Certo, il diritto anglosassone è diverso per formazione, per cultura, per storia rispetto al nostro diritto, il diritto romano. Però le faccio questa proposta, lei che dice? I magistrati eletti dal popolo. Non mi sembra una proposta praticabile in casa nostra, e del resto la nostra Costituzione ha voluto, e a mio parere giustamente, i magistrati indipendenti non solo dal potere esecutivo, cioè dal governo, ma anche dal consenso popolare. Questo perché un magistrato, per far bene il suo dovere, deve essere imparziale, e per essere imparziale non può dipendere dagli orientamenti della maggioranza di turno, che sono inevitabilmente mutevoli e che potrebbero indurre a assolvere un colpevole o a condannare un innocente, cioè a fare esattamente il contrario di quello che deve fare un buon magistrato. Del resto abbiamo un esempio storico di processo condizionato dal consenso popolare, che è il processo a Gesù, che credo stia lì a dimostrare quello che non bisogna fare. Vicepresidente, un'ultima domanda, perché un SMS ci arriva, dice, la traduco così: che ne pensa dei magistrati che fanno anche dei convegni, relazioni? Un ascoltatore ci dice, gli chiede un giudizio su Ingroia, non so se vuole dire un giudizio personale su un magistrato, comunque il magistrato che fa anche conferenze, partecipa a convegni, le piace come idea oppure no? A me piace il magistrato che fa il suo dovere in modo il meno pubblico possibile. Tuttavia non si può negare che il magistrato è pur sempre un cittadino che partecipa dei diritti anche di libertà, di associazione, di espressione di tutti i cittadini. Certo, deve sempre tener conto che incontra un limite particolare, che è quello che la sua funzione, per essere autorevole, deve essere imparziale, e dunque ogni contaminazione, ogni presa di posizione di parte rischia di appannare questa imparzialità che è il bene più prezioso che il magistrato ha e che deve preservare. Intanto io la ringrazio per essere stato con noi, grazie Michele Vietti, grazie a voi. Buona giornata, è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno dei giudici presieduto dal Capo dello Stato. Ci fermiamo, la pubblicità e il meteo, e poi parliamo di una proposta che ha fatto discutere e fa discutere di contrasto alla droga nel nostro sondaggio. 800240024 per intervenire in diretta. 24 mattino. Alle 8:36 minuti, eccoci qua. Parliamo di prevenzione alla droga con nel nostro sondaggio con un tema, un metodo che fa discutere. È uscito ieri sui giornali, la proposta viene dalla provincia di Bolzano e l'abbiamo tradotta così: somministrazione controllata di droghe ai tossicodipendenti per colpire le narcomafie. Che ne pensate? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, la proposta è uscita ieri sui giornali, ha fatto molto discutere, è stata avanzata e ce lo spiegherà nei termini dal direttore del Forum Prevenzione delle Dipendenze della provincia di Bolzano, Peter Kohler, che saluto. Buongiorno e benvenuto, Kohler. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Intanto l'ascolta anche il sottosegretario Carlo Giovanardi. Buongiorno Giovanardi e ben ritrovato. Buongiorno. Senta, buongiorno. Allora Kohler, ci aiuti a capire, il principio da cui lei parte mi pare di capire è questo: la guerra alla droga è fallita, bisogna cambiare l'approccio, cioè la guerra anche al mercato della droga, alle narcomafie, è così? Sì, mi servono due minuti per spiegarlo. Io da 20 anni lavoro nel campo, da 10 anni nella prevenzione, prima 10 anni ho lavorato solamente con persone affette da dipendenze illegali. Negli ultimi 10 anni abbiamo fatto una serie di programmi e di sviluppi all'interno della nostra provincia e spesso però mi viene chiesto: ma i vostri programmi funzionano? Sono efficaci, sono efficienti? E io dico sì, lo sono se li andiamo a misurare con i nostri metodi, però se lo chiedete questo a me, no? Questa dimostrazione, io vorrei che questa viene anche richiesta a quelle persone che sono responsabili per la repressione del mercato. E lì vediamo che da 30 anni usiamo gli stessi metodi e invece di avere dei risultati concreti il mercato si diversifica, il prezzo delle sostanze illegali diventa sempre di meno, gli stati che la coltivano diventano sempre di più, le tratte aumentano e allora magari se sulla prevenzione abbiamo cambiato tante cose, anche su quello che sono le forme di combattere il mercato illegale ci vogliono altre. Quindi la repressione del mercato, lei dice, ieri mi citava un esempio: in Messico muoiono 35.000 persone all'anno per il traffico, cioè per la criminalità legata, no, al traffico. Siamo arrivati al momento dove abbiamo più vittime nelle guerre delle droghe, no, fra i gruppi che si combattono, che vittime delle sostanze stesse. E quindi io chiedo come prevenzionista, ma facciamo anche lì dei pensieri, non è che la provincia di Bolzano ha fatto fino adesso grandi sviluppi o progetti, chiedo solo di andare avanti con un pensiero un po' più rivoluzionario dove diciamo fino adesso il mercato è nelle narcomafie, possiamo togliere questo mercato alle narcomafie, possiamo usare tutte queste energie che abbiamo all'interno della repressione in altra forma? Ecco, questa è la forma, la forma che lei propone, almeno l'ho capito anch'io dai giornali, è perché di fronte ai tossicodipendenti cronicizzati non pensare a una sorta di somministrazione controllata, che non è la liberalizzazione, una somministrazione controllata all'interno di un percorso terapeutico in modo da sottrarre queste persone dal mercato delle narcomafie, così l'ho capita bene? Sì, guardi, noi siamo terra di confine, per questo noi guardiamo verso sud, per questo sono spesso anche in regioni d'Italia a fare delle conferenze, ma guardiamo anche verso nord. L'Austria. Vediamo verso l'Austria, verso la Svizzera, verso la Germania, anche verso la Danimarca e vediamo che ci sono alcuni stati che hanno anche con legge concesso ai servizi sanitari di trattare certe persone non solo con i farmaci sostitutivi ma anche con l'eroina stessa. Ma okay, questo quindi non solo col metadone ma anche con somministrazione controllata di eroina. Giusto. appunto, all'interno di contesti sanitari con certi criteri anche seri, severi di accesso a questi programmi. E vediamo che i programmi hanno un successo, le persone hanno meno criminalizzazioni, hanno delle vite più stabili e sono non più in questi contesti criminali. Questo è un effetto. Beh, interessante. Allora, interessante, ma so che è già bollata negativamente dal sottosegretario Giovanardi, però sottosegretario, qui c'è Peter Kohler, siamo in maniera pacata a discutere di questo tema, che so che la vede totalmente su una posizione contraria. Che cosa c'è che non le piace di questa posizione del dottor Kohler? Giovanardi. Innanzitutto, come dipartimento, noi abbiamo fatto una nota ufficiale ieri in cui abbiamo spiegato che abbiamo cercato ovunque qualche pubblicazione scientifica del dottore che spiegasse e motivasse un confuso discorso che riguarda il gioco, l'alcol, le sigarette, la droga, tutte affastellate, senza che ci sia un'evidenza scientifica che venga spiegata sul metodo che viene proposto. Sì. E poi non si capisce quello che sia. Beh, perché lei, lei ha letto un articolo, però il metodo ce l'ha proposto, l'idea... No, siamo andati a cercare tutta la documentazione scientifica su tutti i siti per vedere se c'era qualche pubblicazione di questo dottore che spiegasse, che avesse pubblicato, che si fosse confrontato con la comunità internazionale sulle sue teorie. Vabbè, comunque è il direttore del centro prevenzione della provincia di Bolzano da anni. Comunque le sue pubblicazioni sono zero e le proposte... Se vogliamo, tiriamo via il tabacco, il gioco. Parliamo di droga. Parliamo. L'idea principale è: a uno che piglia eroina, gli diamo eroina. Continuiamo a dargli spina, cioè uno si droga, noi gli diamo droga. Naturalmente, questo non si può fare, per esempio, tenga conto, i minorenni, 13enni, 14enni, 15enni, perché il problema ormai che le neuroscienze hanno spiegato alla noia è che quando un ragazzino di 13, 14, 15 anni si droga, il suo cervello viene irrimediabilmente leso. Quindi la cosa da fare è intervenire precocemente quando comincia a drogarsi, prima che abbia danni cerebrali irreversibili. Se si continua a dargli droga, specialmente nell'età dello sviluppo, questo ragazzino di 18-19 anni sarà per tutta la vita perso. Però, sottosegretario, c'è così... come un malato che invece di curarlo per la sua patologia... Invece di curarlo chi ci dà del veleno? No, ma il messaggio diamo eroina a un eroinomane è un po' riduttivo. Cioè il dottor Kohler, io non so, dice all'interno di un percorso terapeutico e con lo scopo di togliere alle narcomafie un controllo del mercato. Intanto queste terapie a scalare basta andare in un set con il metadone vengono già fatte. Ma l'obiettivo è quello del recupero. Cioè del metadone a scalare per toglierlo dal tunnel della droga e per rilanciarlo. La storia delle narco è una delle più balle, più grandi a livello planetario. Abbiamo appena finito a Vienna l'incontro dei 180 paesi del mondo, dove è passata una proposta italiana, del Dipartimento italiano. Non c'è un paese al mondo che non ritiene risibile la proposta che aumentando la circolazione della droga, la somministrazione della droga, non si ampli il mercato. Il tabacco, che è legale, non ha una diffusione minore, per perché fortuna, è legale. No, ce l'ha 20 volte maggiore, perché mentre i cronici in Italia sono lo 0,001 della popolazione, i cronici da droga, e mentre chi si droga direttamente, indirettamente, il cannabis e la cocaina, sarà il 2% della popolazione, ci metto anche dentro che ha fumato una canna nella sua vita, il tabacco viene fumato dal 25% della popolazione. E che vorrebbe dire? Pensi solo agli incidenti stradali, cosa vorrebbe dire avere in giro gente, oggi che sappiamo che gran parte degli incidenti stradali è causato da persone che guidano sotto l'effetto delle droghe o avendo abusato di alcol, cosa vorrebbe dire solo da quel punto di vista il problema della sicurezza pubblica? Allora, dottor Kohler, io non so, non voglio entrare nella questione personale, se vuole replicare sul fatto delle sue competenze, eccetera, però usciamone, cioè veniamo al punto invece delle contestazioni guardi, che le fa. C'è un po' di confusione, no? Cioè, uno, noi parliamo di due contesti diversi, il senatore parla di trattamenti, parla di legalizzazione, parla di droga, eccetera. Io parlo di un pensiero un po' più approfondito, dove anche visionario magari, dove si dice ma qua abbiamo un grandissimo mercato illegale e lo stiamo combattendo da 30 anni con dei risultati discreti, no? E vogliamo che questo va avanti in questa direzione o troviamo delle strategie nuove? Allora a me come prevenzionista, io ho il compito, no? chiaro di ridurre le domande, no? Per questo noi abbiamo una serie di progetti qua in provincia di Bolzano portati avanti, anche documentati, per questo chi guarda il nostro sito, chi guarda le nostre pubblicazioni vede che lavoriamo anche con un certo successo, ma questo è un altro paio di maniche, ancora come trattare le persone dipendenti, e poi c'è questo problema delle narcomafie, che è un terzo settore, e lì fino adesso non siamo arrivati, c'è un immenso mercato. Sì, ma la contestazione che le fa Giovanardi è che non è che una maggiore diffusione, una maggiore o una somministrazione, una diffusione controllata all'interno di percorsi terapeutici possa in qualche modo abbattere il mercato delle narcomafie. Questa è la contestazione. Guardi, se il senatore diceva che la percentuale minima del 0,1% eccetera, sono proprio queste persone però che sono una parte della clientela del mercato. Se gli togliamo questa parte, viene già una parte di meno e la integriamo in contesto. Cioè lo 0,01%. Io non lo devo dimostrare che i programmi funzionano, perché basta andare a vedere i colleghi della Svizzera che hanno fatto studi scientifici a lungo termine, e lì loro dimostrano che le terapie sanitarie con l'eroina hanno un certo successo, una certa valenza. Ma un successo, in che cosa? Però me lo dica dopo, devo dare le informazioni sul traffico. Successo cosa vuol dire? Cioè che queste persone escono, che queste persone si stabilizzano con una somministrazione controllata e continua. Questo è il concetto di successo. Dopo le informazioni sul traffico. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che il 75% dei nostri ascoltatori dice ma sì, è un'idea che si può sperimentare, quella di una somministrazione controllata di sostanze ai tossicodipendenti per toglierli dal mercato delle narcomafie, come ci sta dicendo il dottor Kohler. Dottore, ci dica cosa vuol dire successo, così poi le risponde Giovanardi. Cioè, in Svizzera c'è successo in queste terapie in cui si somministra eroina controllata alle persone? Successo cosa vuol dire? Allora, i risultati dei colleghi svizzeri sono sulla salute. C'è un miglioramento della salute psichica e anche fisica, c'è una stabilizzazione della situazione di alloggio, c'è un rientro in contesti lavorativi, c'è una diminuzione del 70% della criminalizzazione, c'è anche un passaggio in altre terapie e c'è un costo economico anche molto rilevante, perché il paziente costa 57 franchi al giorno, e questo vuol dire che la comunità risparmia 95 franchi al giorno, no? Perché ha questi pazienti in terapia e non in contesti criminali. Allora, senatore Giovanardi, a queste, diciamo, a questo approccio che dice? Ma non c'è dubbio, se noi chiudiamo tutte le comunità di recupero dove i ragazzi vengono recuperati, vengono guariti o si devono guarirli e rimettere nella società, chiudiamo i CERT, facciamo le stanze del buco, e a chi ha la sfortuna di essere nel tunnel della droga gli diamo eroina o cocaina, certo che risparmiamo, ma non c'è dubbio, il risparmio c'è, li condanniamo a morte o comunque a cronicizzarli con la droga. Naturalmente li dobbiamo tenere rinchiusi, perché sì, se dovessero girare uno che è sotto le sostanze provoca dei danni incredibili a se stesso e agli altri. Perché io quando sento queste cose torno a domandare a quelli che dicono siamo favorevoli: quanti 7 ciclisti sono stati falciati 2 mesi fa in Calabria, uno che aveva fumato la cannabis, 7 vite distrutte, i 2 pallavolisti di Bergamo, le 2 ragazze di Bologna sulle strisce pedonali, solo per parlare degli ultimi avvenimenti, di gente che girava drogata e causava quei problemi. Allora ci sta bene che si moltiplichino le persone che posso guidare, operare in questo no, ma i miglioramenti cui faceva riferimento alla Svizzera, dottor Kohler, è anche di salute, almeno io glieli recito, di salute e stabilizzazione dell'alloggio. Che ci procuri qualche lavoro scientifico suo o anche di altri, sì, a livello di pubblicazioni mondiali, dove queste cose non hanno asometro, non opinioni. Vengono infatti noi non l'abbiamo trovato. So che ieri c'è stata un po' di maretta, vi siete anche scritti, dottor Kohler, è vero che il Dipartimento dei Giornali le ha scritto dicendo ci dia delle prove scientifiche su degli studi, è pronto a darli su questo? Ma questa è una delle prove che le sto dicendo adesso. Guardi, il problema che... Ma però queste sono prove che lei... mi scusi, però sono prove che lei ci cita, io non le ho. Cioè, è pronto a darle con studi scientifici? Anche su internet, non c'è nessun problema anche a darle. Ma ancora, allora, non dobbiamo il pianeta delle sostanze dipendenti non è così semplice da capire e tutte le terapie, gli approcci che abbiamo devono essere diversificati e non si può dire una cosa sono gli incidenti gravissimi eccetera e l'altra cosa sono delle terapie e l'altra cosa ancora è il mercato, non si può dire tutto è la stessa cosa, ma si deve, e questo è il compito che noi abbiamo anche nella prevenzione, diversificare, capire bene, sensibilizzare e avere un approccio pragmatico. Cioè mi faccia capire, cioè prevenzione sì, però nel momento in cui c'è il mercato affrontarlo in un modo, nel caso dei cronicizzati affrontarlo secondo un altro approccio ancora. Questo guardi, cioè, l'ha detto in modo perfetto perché abbiamo diverse colonne, dobbiamo avere diversi strumenti e io vedo che in provincia di Bolzano abbiamo una grande sensibilità per la prevenzione, per questo siamo uno dei pochi centri italiani che si può occupare solo di prevenzione con un buon finanziamento e a lungo termine, e questo gli italiani vogliono. In tutte le regioni c'è una grande fame di prevenzione e una grande voglia di fare e ci sono pochissimi finanziamenti. Su questo effettivamente senatore Giovanardi, cioè non mi dipinga l'idea che Kohler vuole mandare drogati in giro per l'Italia a fare incidenti, cioè lui dice la cronicizzazione. L'altra cosa è più confusa ancora, perché io vorrei che qualcuno mi spiegasse se la prevenzione è quella che facciamo noi e abbiamo avuto un calo del 25% del consumo di droghe in Italia negli ultimi 3 anni certificato. Ma la fa anche Kohler di Milano, con un'azione capillare fatta nelle scuole, nelle famiglie, nelle parrocchie, con le neuroscienze, con 60 programmi che abbiamo in corso. Quindi la prevenzione si può fare e spiegando i danni che dà la droga si può ridurre il consumo. Ma certo, ma la fa anche Kohler, ma no, Giovanardi. Ma spiega che però bisogna fare un uso moderato. Ieri sulla stampa ha detto, poi se ritira quello che ha detto è un altro discorso. Per quanto riguarda le droghe e come per il tabacco, si può anche convivere con un uso moderato delle droghe, cioè il problema sarebbe una specie di prevenzione fatta spiegando anche che si può fare un utilizzo della droga non in maniera massiccia. Non so, vediamo se ritira il Kohler. Cioè, vorrei capire cosa, perché non si capisce l'idea dell'uso moderato della droga, visto che abbiamo 2 minuti, si può fare uno spinello ogni tanto, si può fare, gliela dico così brutale, perché ma, cioè, diciamo che allora in tutte le culture, in tutte le epoche le persone hanno usato sostanze. Sì. Da 100 anni facciamo un grande problema di questo, però la cannabis esiste da 2000 anni, per questo ci sono, e in tutte le culture ci sono usi moderati. Se guardiamo l'Italia, la sostanza della cultura italiana è l'alcol, e quante persone abbiamo che abbiamo un uso moderato di alcol? Abbiamo più o meno il 90% che usa alcol, ha un uso poco problematico, abbiamo il 10% che ha un uso di dipendenza, e per queste persone ci vogliono dei programmi, ma gli altri hanno sviluppato con le loro competenze un uso emancipatorio e anche responsabile. Senatore Giovanardi, le va bene come risposta? No, è un messaggio folle. Paragoni il lambrusco e il bicchiere di vino a tavola, il lambrusco, all'uso di sostanze che devastano il cervello, il cui uso devasta il cervello, vuol dire che proprio siamo totalmente fuori strada. Però la quantità conterà, perché se io mi bevo 3 bottiglie di lambrusco, lei sa che... Sì, insomma, lei si prende una bottiglia di una pastiglia di ecstasy. Ma certo, ma lo so, ma infatti... E a Grosseto sono appena morti 2 ragazzi in discoteca con una pasticca. I 500 che muoiono ogni anno per overdose, e i ragazzi che fumando cannabis hanno danni irreversibili al cervello, fumando cannabis, dimostrato dalle neuroscienze, ma di cosa stiamo parlando? Ma questo signore ha delle informazioni devastanti. Beh, adesso insomma, intanto così devastanti. Vabbè, e questa... non suffragate se non da teorie. Ancora, queste però ha detto che gliele manda queste idee. Allora io mi devo fermare, vi ringrazio, ci sono tanti ascoltatori oggi, il tema è molto sentito, purtroppo ho voluto dare spazio a queste posizioni così le abbiamo sviscerate bene a fondo, spero. Ringrazio il dottor Kohler e il sottosegretario Giovanardi. Tra l'altro, cari ascoltatori, devo dire, oggi rimango qui indegnamente a sostituire anche Oscar Giannino a qualche impegno professionale, per cui per qualche giorno non sarà con noi. Oggi tocca a me, dunque insomma non è che vado via. Saluto Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia. Adesso c'è un cambio come nel calcio, ma io rimango qua e ci sentiamo tra poco, dopo la pubblicità.